E continua il palinsesto sui 103.1 con l'ultima puntata per questo 2017 di Chi fa da sé, fa per te. E ancora una storia di quotidiana sopravvivenza. Elisa Iacobucci al microfono, come ogni venerdì, insieme ad un ospite diverso. Oggi raccontiamo una storia, la storia di un innocente, così si definisce, ventenne, che sbarca a New York nel 2001, esattamente 3 settimane prima della caduta delle Torri Gemelle. È un'accoglienza importante, un'accoglienza da brividi, che da subito fa capire a questo giovane musicista che è in un nuovo mondo. Ma non è servito questo a spaventarlo, anzi, grazie al suo percorso si sono aperte le porte anche ad altri musicisti italiani che sono riusciti a coronare il loro sogno, vivere e suonare nella capitale mondiale del jazz. Allora diamo subito il benvenuto a Luca Santaniello. Salve a tutti, ciao Elisa. Buongiorno, grazie per essere qui. Piacerissimo di ritornare in questa città dopo un po' di tempo che non c'ero e piacerissimo di essere tuo ospite in questa meravigliosa cornice radiofonica. Ma che bello, già siamo partiti con il piede giusto. E Luca Santaniello è il primo italiano ad entrare nel programma di jazz della Juilliard School Men e a conseguire poi l'Artist Diploma. Sì, questo era un percorso, un corso di studi che è nato alla Juilliard già variati anni prima. La Juilliard oggi nel programma di jazz compie i 15 anni di anniversario e io l'ho finito nel 2011, quindi sono entrato nel 2009 e prima di allora non c'era stato nessun altro studente italiano nel corso di jazz di Juilliard e di questo ne sono abbastanza fiero. Bisogna esserlo, insomma, sì. Non ti vedo convinto, non essere troppo umile. No, io quando sono fiero di una cosa sembra che insomma sono timido, ma in realtà sono molto fiero. In realtà la mia faccia non descrive l'emozione interna. Il petto si gonfia, il però. Petto si gonfia un po', lo vedi? Ma come è stata questa ambientazione newyorkese? All'inizio è stato un Luna Park bellissimo. La prima volta io ci andai nel gennaio del 2001 perché mi dissi devo vedere com'è New York. Ci andai come turista, volevo sapere, capire, assorbire l'energia della città. Mi ha subito preso e ho detto io qua devo vivere, non so per quanto, non so come, ma io qua devo venire. Non c'è assolutamente nessun altro, non avevo nessun legame in Italia forte. E avevi un magnete però che ti stava attirando verso... Come lo sai questo? Immagino, sicuramente la musica può essere una componente. Ma sai che la musica deve essere sempre complementata dalla vita, perché altrimenti non hai nulla da dire quando sali su un palco. E in quel caso la ragione che veramente mi ha spinto a superare tutti gli ostacoli mentali di un giovane ragazzo di provincia innocente a quindi lasciare... vuol dire che poi l'innocenza l'abbiamo abbandonata. Vabbè, ma quella l'innocenza un po' te la porti dentro, non devi fare mai troppo vedere che sei innocente, perché sennò il mondo ti mangia. Soprattutto se vivi a New York. Soprattutto se vivi a New York, ma dappertutto. Dappertutto. E quindi l'innocenza la porto dentro, ma quell'innocenza che era molto pronunciata allora, avevo solo 21 anni e avevo un po' di esperienza così all'estero, piccoli viaggi, un po' in Italia, cominciavo a lavorare anche molto, però non ti rompe quegli ostacoli mentali di una cultura di provincia e dire vado in un posto nuovo dove si parla una lingua che non è la mia, che immagini attraverso le immagini dei film, i ricordi dei film che tu hai. E non lo fai se non hai un vero tiro, che delle volte può essere solo la musica, ma meglio se accompagnato magari anche da un sentimento. Quindi più che altro l'amore che ti ha fatto fare questo primo volo. La curiosità di seguire questa ragazza che mi disse vieni perché qui è il posto per te, che stai facendo lì, stai perdendo tempo, qui è la storia vera. E me lo disse per un bel po' di mesi, io non ci credevo, lei poi cercava di continuare a tenere un rapporto anche a distanza, io non ci credevo molto in questa cosa, fino a quando poi mi sono convinto e sono andato. E lì nel gennaio del 2001 mi sono innamorato di New York e poi ci sono tornato dopo 6 mesi all'incirca. E ho deciso che non, che non volevo mettere una data di ritorno. Ho detto, vediamo come va. Di sicuro sapevo che sarebbe andato bene, perché trovavo tutte le cose che cercavo: la musica che cercavo, i batteristi che cercavo, l'energia, la voglia di fare, l'adrenalina, gli stimoli, la motivazione. Tutti sono più bravi di te, quindi sei spinto ad essere migliore. Una città senza confini, senza barriere, molte culture. Io vengo da Campobasso, che per chi non lo sapesse... Attenzione, il vero scoop non è Luca Santaniello, che fa da sepa per terra di Città Fucico, ma è... È la regione che non esiste. È che in realtà lui può testimoniare che io posso testimoniare che esiste il Molise. E quindi sì. Venivo da lì. Immaginati, arrivo a New York, boom, da bump, da. Come si dice? In drink and drunk. Allora, visto che la base del bebop ricorda un po' il drink and drunk, sì. Ci ascoltiamo Take 5 e poi rientriamo. All right. La storia però va analizzata dalle origini, perché bisogna trovare la scintilla originaria che poi ha scaturito questo petto rigonfio. Quindi sicuramente partiamo dal Molise, questa regione fantastica italiana. Fantastica. E troviamo Luca Santaniello piccolo, 8-9 anni, che trova nella batteria uno strumento magnetico in questo caso. Sì, uno strumento magnetico. In realtà da prima. Da 6 anni. 6 anni? Sì. Ma ti hanno regalato... Chi è stato a regalarti o a spingerti a questo strumento? Mi sono spinto da solo. Ed è scattato il giorno in cui i miei genitori mi portarono, sai, a una di queste cene di lavoro che si organizzano i colleghi di mio padre o di mia madre, adesso non ricordo bene, se fosse questa cena, era inverno, questo ricordo, e alla sera c'era la band che suonava, sai, il famoso complessino. E questo che suonava la batteria ti no. ha incantato? Io sono andato là vicino e sono rimasto lì tutta la sera, a fianco al batterista. E da allora mi è scattata la cosa che volevo suonare la batteria. E c'è stato un lungo periodo di trapanamento di orecchie a mia madre per convincere di comprarmi la batteria, e ci riuscii verso gli 8-9 anni a farmi comprare la prima batteria giocattolo. Beh, già un primo passo. Ricordo il giorno che andammo a comprare la batteria giocattolo al Nido del Bambino. Vedi? Su via Roma. Beh, che memoria. Sì, queste sono cose che non si scorda. Poi ci sono stati un paio di anni di suonare appresso alla televisione con Cristina D'Avena, con la batteria. I jingle pubblicitari che tentavi di fare. Sì. E poi finalmente mia madre e mio padre mi hanno mandato da un maestro di batteria di Campobasso che si chiama Donato Cimaglia, che è ancora lì e siamo rimasti molto amici, che mi iniziò la batteria. La seconda lezione o terza lezione, mi ricordo, mi suonò un disco di McCoy Tyner con Ron Carter e Elvin Jones, perché mi disse: vediamo se riusciamo a riconoscere la struttura del blues. Mi fece la prima lezione di ear training, ok? Era già la terza, quindi aveva visto che c'era del potenziale. Aveva probabilmente visto che c'era del potenziale, aveva usato questa cosa e mi fece questo test, perché avevamo visto la lezione dello swing, come si suona lo swing sul piatto, il pattern, quello che fa ding, zing, ding, zing, ding. Ma aveva mostrato questa cosa e poi mi fece sentire McCoy Tyner. E da allora, quindi 10-11 anni, cominciai a comprare i miei primi dischi di jazz. Primo disco di jazz, Art Blakey Jazz Messengers Caravan. Secondo disco, per accoppiare un batterista un po' più rock, che era stato anche un grande batterista di jazz, ma poi diventò anche un batterista di fusion, Billy Cobham, Warning. Questi i miei primi due dischi comprati da bootleg a Campobasso. Che a questo punto pubblicizziamo, anche se non ci possono E ancora ascoltare. Esiste, non si chiama più esiste. Bootleg, si chiama Musica e Tè, tipo ha messo un negozio di tè con dietro un posto dove si ascoltano i dischi. Vedi. Quindi comunque ancora riescono a sopravvivere i negozi. Ci sono due negozi a Campobasso. Uno è il Dubop, che sta sotto casa mia, Nicola di Dubop, un saluto. che resiste e ha rimesso anche i vinili adesso. Grazie anche ai vinili, che molti negozi sono riusciti a sopravvivere. Esatto, è un grande ritorno. Sì. Però sicuramente, avendolo sotto casa, immagino che spesso andavi ad attingere. Questo è successo molto dopo, lui si è trasferito sotto casa mia molto dopo, perché c'è stata una scissione a bootleg. C'è stato prima, si sono splittati e Dubop ha fatto altro. Vabbè, quindi possiamo dire che un Herbie Hancock, un Ron Carter e anche un Billy Cobham insieme riescono a coronare bene la tua struttura musicale. Assolutamente. se nel primo album di Luca Santaniello è presente Ron Carter, immagino l'emozione quando in un secondo momento hai avuto la possibilità di suonare proprio con lui. Sì, e questo è stato un trip pazzesco. Ti immagini, tu c'hai il primo album che ascolti della tua vita, ci sta Ron Carter, e poi ci suoni insieme. Che botta, questo è New York, con le cose impossibili che si realizzano. E poi ti giri e dici, ma lui è qui. Esatto. Cioè, lo stesso che io ascoltavo. Ascolta questa cosa per farti capire la serietà di quest'uomo. Suonava con una band di tutti i musicisti più o meno della mia età, fra i 30 e i 35. Beh, io non ne ho più 30, però voglio dire, allora eravamo fra i 30 e i 35. Dovevamo fare le prove, era alle 3 le prove, 3 di pomeriggio. E io, sapendo che lui era uno molto preciso e dovevo montare la batteria per fare le prove, ho detto: voglio stare lì non più tardi delle 2:15, perché voglio farmi trovare pronto. Allora arrivo, corro, riesco a stare lì nella sala prove alle 2:20. Stava già lì, ma fregato sul tempo. T'ha fregato sul tempo. E quindi, nonostante grandiosità, lui comunque lui stava lì per suonare con 3-4 pischelli, poi alla fine era già lì pronto e guardava fuori dalla finestra, aspettava che arrivassimo tutti noi. Io sono arrivato il primo che è arrivato, ho montato la batteria e tutto il resto, e penso che per quel motivo siamo rimasti in grandissimi rapporti, perché quello è stato il biglietto di presentazione che poi lo ha fatto porre in maniera positiva nei miei confronti. E ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo, ultimamente è venuto pure a vedere un mio concerto, quindi mi ha fatto un grandissimo piacere. Immagino. Questo veramente, allora, mano a mano, a fine della puntata andrai schiena dritta, le scapole si toccheranno. No, è una cosa ovviamente che, insomma, di tutto rispetto. Tra l'altro, visto che in questo brano c'è anche Herbie Hancock, mi raccontavi che quando ti hanno premiato per... hanno fatto la laurea. La laurea col cappello in aria, quello che, all'americana. All'americana, che ti danno la pergamena. La pergamena, sì, si lancia il cappello. E poi ti sei girato e visto Herbie Hancock. Sì, perché gli davano a fianco a me, la Juilliard gli dava il dottorato d'onore quell'anno, insieme a Paul Jacoby, che è un attore famoso di teatro e cinema. E quindi già hai fatto due spunte. Ho fatto due spunte. Poi siamo fatti la fotografia, immagino. Ho fatto il sorriso, Herbie. Beh, insomma. Eh? Questi sono ovviamente due tra i tantissimi con cui hai collaborato. Ce n'è tra gli altri qualcuno che c'è un aneddoto particolare che vuoi ricordare? Aneddoto particolare. Lee Konitz metteva il sacchettino del bocchino del sassofono dentro la campana del sassofono mentre suonava, per ottenere questo suono, diciamo, più morbido e vellutato. Qui già c'è un suono abbastanza, come dire, molto legato, con poco attacco, molto così. E metteva addirittura il sacchetto dentro per fare anche più da sordina. Questo, e quindi dovevamo suonare pianissimo. Questo a Smalls. Un altro aneddoto: Gio Lovano è stato tranquillissimo, è arrivato, abbiamo fatto le prove, super tranquillo, super relax. Sì, si vede che è una di quelle persone che potrebbe essere easy. Un po' lo zione. Sì, lo zione. Vero? Lo zione, easy, ci ha fatto stare tutti tranquillamentissimo a nostro agio. Credevo che Ron Carter mi spaccasse la testa di cose. Fai così, non mi ha detto nulla. Non mi ha detto nulla, ha detto solo una cosa su un pezzo. Ha detto: perché non provo a suonare questo ritmo sul hi-hat, che sarebbe quello lì che si suona col piede, no? E invece di suonarlo sul piatto. E io ho detto ok, solo questa cosa mi ha detto. Quindi, alla fine i più grandi sono così. Esatto. Danno la possibilità. Cercano di guidarti con la musica senza troppo... Beh, non tutti sono così. Ci stanno pure quelli molto pignoli, molto precisi, molto... Sì, a volte l'artista riesce a inserire la propria parte umana e allora in quel caso diventa un'icona. Poi a volte non è detto che un artista debba essere umanamente anche grande tanto quanto il suo talento. Sarebbe la cosa migliore, però. Per esempio Benny Golson, meraviglioso, super easy, arriva, mette il sassofono. Cosa volete suonare, ragazzi? Che tonalità? Bene, ok, allora dai. One, two, cioè... tutto funziona. E questo ovviamente ti ha dato il manforte per rimanere in pianta stabile a New York e dire, se all'inizio avevi detto vabbè, vediamo come va, perché può darsi che ci metta dei mesi prima di inserirmi anche nel contesto musicale, invece in realtà poi in pochi mesi sei riuscito a trovare la tua realtà musicale. Sì, queste esperienze con questi grandi e con tanti altri grandi meno conosciuti sono arrivate dopo, però devo dire che arrivato a New York pensavo di averci messo un bel po' di tempo per cominciare a suonare e inserirmi. Invece abbastanza presto ho cominciato ad avere i miei ingaggi settimanali a suonare con Ron Barton, che è questo organista che suonava con Roland Kirk, e facevamo una serata ogni domenica al Robin's Nest sulla 125esima, proprio Harlem Centro. E poi da lì piano piano ho cominciato a ricevere chiamate e nell'arco di qualche mese ero indipendente, cioè mi guadagnavo tutto quello che mi serviva con la musica, e questa è una cosa che mi ha abbastanza scioccato. E questo è un misto fra possibilità che ti dà la città, capacità, anche capacità di relazionarti, di fare network, di essere disponibile, di non essere timido nel far sapere ai musicisti e ai tuoi colleghi che hai voglia di fare. Ma hai trovato anche delle difficoltà con i colleghi italiani? Hai visto più rivalità, oppure una volta che si è lì e c'è la voglia di confrontarsi spariscono un po' le sgomità? No, in linea di massima New York, che nel nostro immaginario potrebbe risultare come una città, una giungla d'asfalto dove tutti si fanno le pezze a vicenda, dove tutti sono aggressivi, in realtà c'è un senso della comunità dei musicisti lì molto più forte, e la disponibilità degli americani in genere a connettersi, a fare business, a fare network, ad essere interessati a te al di là di chi sei o chi non sei, è comunque culturale, e quindi la resistenza alla connessione umana e professionale è stata molto meno rispetto a quello che forse è l'ambiente, diciamo, non americano, non newyorkese. Forse perché c'è una torta più grossa e quindi c'è la possibilità di condividerla. La torta è più grossa, ma io penso che la mentalità è proprio diversa, cioè connettere con più persone, mantenersi in rapporti positivi con più persone non può altro che far bene al tuo business, è proprio il contrario, invece di chiudere, mettere i paletti e marcare i territori. Quindi dici che anche l'italiano che qui avrebbe quel tipo di mentalità, una volta strappato dal contesto e inserito in quello di New York, riesce ad ammorbidirsi e quindi a... In linea di massima, sì, lo auguro a tutti gli italiani che vanno lì di ammorbidirsi, più che altro di assorbire le cose positive di una mentalità e di una cultura che ha tante cose negative, però, insomma, visto che noi siamo emigrati in questo senso, io dico sempre: pigliamo il meglio dei due mondi, tutto ciò che è buono dell'America e ciò che è buono dell'Italia ce lo portiamo dentro, il resto possiamo sempre dire che no, io non sono italiano, no. Oppure no, io non sono americano, no, te no. La giochi come vuoi. Allora, visto che abbiamo avuto la possibilità di approfondire questa prima parte di Luca Santaniello, ci ascoltiamo un brano dove suoni insieme a Joe Lovano e Antonio Ciacca. Sì. Thank you.